di lei. Sono curati per i posti. Dimmi. Si sa qualcosa di questo? No, io non ho più saputo nulla. Per domani sera dici? Per no, quel cambio di quadro? No. Io no, non ho più avuto contatti. Facciamo a gruppi sì. Di cosa? Di tre autori? Oppure mi dici tu a seconda? O ti seguo? Dunque. Tu vai in ordine, giusto? Ma io ti dico, non commento i testi più di tanto, sai? Quindi dimmi tu. Facciamo quattro. Poi ve lo accendo dopo. Possiamo cominciare? Sì. Ci siamo? Benvenuti e buonasera a tutti. Questo ve lo accendo dopo, magari, quando parlate voi. Sì. Un caro saluto da parte di tutto lo staff della biblioteca, in particolare dalla direttrice, la dottoressa Valeria Trevisan, che sarà qui con noi per un po', e un caro saluto e un ben ritrovati anche a voi, perché so che non è la prima volta che venite qui, perché avete già avuto modo di conoscere la biblioteca. Quindi saluto e ringrazio l'Associazione Culturale LATMAG, insieme anche l'Associazione degli Scrittori Altoatesini. Stasera siamo in presenza di Franco Latino, il curatore di questa antologia che verrà presentata questa sera, insieme al professor Galasso, scrittore critico letterario, e l'attrice Maria Piazzanetti, che stasera presterà la sua voce per alcune letture studiate ad hoc per l'occasione. Ne approfitto, prima di entrare nel vivo di questo racconto, di questa antologia che vede come protagonista questo elemento che è l'acqua, che è questo elemento vitale per tutti noi, colgo l'occasione per ricordarvi i nostri appuntamenti della biblioteca. Allora, partiamo con la prossima settimana, martedì 9, dove avremo come ospite l'autore Alessandro Romano, che sarà in dialogo con la scrittrice e giornalista Paola Tottis e presenterà il suo volume che riguarderà Andrzej Sulawski, che è questo regista e autore polacco, e all'interno del volume verrà raccontata quella che è la sua carriera professionale ma anche la sua vita privata. Proseguiremo poi la settimana successiva, il 10 aprile alle ore 17, con il nostro gruppo di letture di narrativa locale, dove la nostra collega che si occupa di coordinare un gruppo di lettori leggeranno insieme il volume Il volo dell'altalena di Astrid Kofler. È una storia molto interessante, è un romanzo che tratta la storia di questa docente romana che si trova a essere trasferita nella provincia di Bolzano per insegnare, ma siamo nel 1935, quindi periodo del fascismo. E delle opzioni, e quindi qui poi si articolerà la storia. Ultimo, ma non per importanza, abbiamo il giorno successivo di mattina, il giovedì 11, un nuovo format della biblioteca che abbiamo già avuto modo di sperimentare nelle scorse settimane e che prevede la presenza di alcuni volontari presenti qui la mattina in biblioteca da noi, che leggeranno ad alta voce alcuni estratti di libri selezionati, scelti ad hoc per l'occasione. Si tratta di volontari del gruppo Letture ad alta voce di Bolzano, per l'appunto, e il saggio che verrà letto sarà quello di Giacomo Sartori dal titolo Cielo Nero, che racconta le vicende di Gianno Caleazzo nel momento in cui si trova nel carcere degli Scalzi a Verona in attesa del processo. Quindi verranno letti alcuni estratti importanti e poi avremo l'occasione di incontrare questo autore alla fine del mese con un altro suo libro. Questo per ora è tutto. Vi ricordo che tutte le nostre serate vengono registrate e sono disponibili online per ascolto, quindi nel caso in cui non poteste partecipare o voleste ripercorrere alcune parti, è possibile riascoltarle online. Quindi lascio la parola a voi e buon ascolto. Prova. Okay. Io ho scritto quello che non ci vedo. Scusami. Accendo le chiavi. Accendo la cosa. Sì. Non mangini, altrimenti non ci vedi. È caduto. No, lascia. È caduto qui. Bene, vediamo, io mi più tanto. Beh, tanto noi ci, con molti di voi ci conosciamo già. Sono Franco Latino, presidente della LATMAG e della scuola. Scusa, io sono partito. No, è giusto, però lo deve tenere qua vicino. Ok. Niente, sono come al solito, sono sempre io, sono sempre Franco Latino. La microfonista, tu preoccupati solo di parlare. Ma scusa, ma non dovrebbe, tu hai le manine sante. No, te lo tengo io vicino. Tu dici, la dici davvero? Va bene, ok. Allora, niente, ripetiamo. Sì, faccio io, non ti preoccupare. Va bene, sei veramente fantastico. Okay. Un cordiale saluto a tutti. Sono Franco Latino, il presidente della LATMAG, nata a Bolzano nel 1983, ed è l'associazione scrittori altoatesini ASA, nata a Bolzano nel 1986, proprio a pochi metri da qui, in uno studio notarile in via Cappuccini. È nata nel 1986. Innanzitutto grazie di cuore alla dottoressa Valeria Trevisan, poi a Jasmine Farina e a tutti della Claudia Augusta. Grazie a tutti, tutti gentilissimi e fantastici. Allora, tra le antologie, le varie antologie che sono state tematiche, gli animali nella nostra vita, la lirica religiosa italiana, la poesia d'amore, il mare nella poesia, la montagna nella poesia, oggi la biblioteca ci presenta l'antologia della LATMAG, editora a cura di Franco Latino, il sema acquatico nella poesia, il rapporto tra poesia e acqua. Relatore è il professor Eugen Galasso, le letture della preziosa Maria Pia Zanetti. Niente, grazie a tutti i presenti, alla prossima, grazie ancora e a voi il professor Eugen Galasso. Allora, quando così veramente anni fa in un pourparler, diciamo, avevo accennato, era già cosa vecchia, anno accademico 87-88, ho frequentato un seminario per un esame universitario sul sema acquatico in poesia, tenuto dal dottor allora Giancarlo Quiriconi, e Franco Latino mi ha detto, qui veramente l'editore, il curatore, oltre che il poeta e lo scrittore, mi ha detto: questo è da recepire, come accennava Franco, una delle antologie tematiche che la LATMAG propone e ha proposto. Allora, l'acqua è uno degli elementi notoriamente quintessenziali dell'esistenza, non solo perché il corpo umano è composto, come sapete, in gran parte di acqua, e la necessità di bere, di assumere acqua è più importante anche del cibo stesso. Quindi c'è un elemento fortissimo anche da un punto di vista, se vogliamo, medico, sanitario, ma oltre a questo è veramente appunto quintessenziale. Pensiamo al fatto che negli antichi miti, tutti i miti contemplano l'acqua. Se prendiamo ciò che rimane degli antichi egizi, degli assiro-babilonesi, qui andiamo un po' meglio col poema di Gilgamesh, come penso sappiate, o per gli egizi, appunto il libro egiziano detto dei morti, che in realtà tratta molte altre cose, ma poi più vicino a noi la Bibbia, naturalmente, il Mar Rosso, nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, inutile dire, il fiume Giordano, i pescatori che sono poi gli apostoli, o anche il lago di Tiberiade, insomma, inutile che poi ci soffermiamo troppo. Ma nella cultura greca, dove diciamo mito, filosofia e poesia erano un tutt'uno, in Esiodo c'è naturalmente, nella Teogonia in particolare, c'è questo tema con Poseidon, che è Nettuno latinamente, poi, che ha un'importanza predominante. E a livello più strettamente, se vogliamo, filosofico, con Talete, che è considerato un po' il primo dei fisici cosiddetti greci, o diciamo dei pre-socratici, che è una definizione un po' così, che lascia il tempo che trova, ma l'accettiamo per convenzione, si dice già «to hudor to non ton achesti», no? È, cioè, di tutte le cose, di tutti gli esseri, l'acqua è, diciamo, la causa, è la fonte essenziale, no? E questo percorre poi tutto il pensiero antico. Voi sapete la classica definizione che viene data da Anassimandro, dove si identificano i quattro elementi: terra, acqua, aria, fuoco. In altre culture asiatica e in parte africana, il legno anche, no? Con tutti gli annessi e i connessi che poi si creano. Dicevo, nella poesia più strettamente poi c'è, e qui siamo diciamo un po' dopo, c'è la famosa definizione che è di Pindaro, Ariston mento hudor, tradotto in italiano metricamente non va molto bene: ottima in vero è l'acqua, no? Che è in qualche modo un manifesto programmatico del rapporto acqua-poesia, o meglio, poesia-acqua. Voi sapete da dove deriva poesia, poiein, creare, modellare. Quindi il poeta è un modellatore, un creatore. Guardo Franco e guardo anche l'amico Umberto Bombasaro, che è poeta, no? Quindi sono, diciamo, forme di poesia che poi percorrono tutti i secoli. Pensiamo al fatto che Ecco, nelle religioni, se pensiamo alle diverse confessioni cristiane, o per immersione o per aspersione, il battesimo è tramite l'acqua, ma più o meno ciò si ritrova poi in moltissime altre tradizioni religiose, con delle differenze, con delle variazioni sul tema, ma sostanzialmente ci siamo. Inutile dire poi nella poesia medievale il peso che ha l'acqua. Per fare un esempio noto a tutti, il ruolo dei fiumi infernali, ma poi della purificazione già nel Purgatorio, nella Divina Commedia, o meglio nella commedia originariamente dantesca. E altrettanto è nella Chanson de Roland oppure nel Nibelungenlied. Il ruolo appunto del in qualche modo battesimale che hanno i fiumi, anche per esempio nel Nibelungenlied, che ha un background pagano oltre che oltre a essere cristianizzato, no? Quindi c'è una assunzione, una trasposizione di termini dove però l'elemento acquatico non importa, se sia fiume, lago, mare, o meglio, importa poi nelle singole produzioni, ma diciamo meno da un punto di vista complessivo. Ecco. L'acqua poi percorre tutti i secoli e per fare solo un esempio, quello che è la tradizione diciamo cristiana, ma poi poetica rinascimentale e post-rinascimentale, è impostata sui fiumi. Se guardiamo alla letteratura italiana, Ariosto e Tasso relativamente entrambi, diciamo nei loro poemi, danno grande importanza a questo elemento. Qui è inutile che mi soffermi in dettaglio. Ariosto e Tasso, ma se guardiamo anche nella tradizione, per esempio tedesca, il Simplicius, Simplicissimus, anche ha l'elemento del Reno che ha una presenza molto, molto forte, che poi naturalmente a fine Settecento, inizio dell'Ottocento, ha una ripresa fortissima con quello che è a mio parere il più grande in assoluto poeta tedesco, poeta di lingua tedesca diciamo meglio, che è Friedrich Hölderlin, no? Più di Goethe. Voi sapete la vita di Hölderlin, disperata, la cosiddetta follia, Pierre Bertaux, che è un grande Hölderlinista, un grande germanista che si è occupato di Hölderlin, parla di quieta schizofrenia per Hölderlin per gli anni. C'è quello straordinario poema che è Der Rhein, il Reno, e voi sapete l'antica querelle tra il mondo germanofilo e il mondo francofilo riguardo al Reno e alle terre diciamo alle terre contese, no? Quindi Elsass-Lothringen o Alsace-Lorraine, Alsace-Lorena. rispettivamente in tedesco e in francese, insomma. Ecco, questo per dirvi un po' la situazione, ma non possiamo dimenticare altri due pilastri della letteratura mondiale, che sono The Tempest, la tempesta di William Shakespeare, e La vita e il sogno di Calderon della Barca. Quindi siamo nel 600 e c'è, o meglio, nel 500 per Shakespeare e nel Siglo d'Oro spagnolo, cioè il Secolo d'Oro, che è fine 500 e 600, dove appunto, ma poi anche l'acqua in quello che è questo romanzo straordinario che è il Don Quixote di Cervantes, no? Romanzo, poema, io oserei dire, ecco, perché tutti gli elementi, voi sapete, la cavalleria, la morte della cavalleria, il superamento dell'ideale cavalleresco, che però rimane, anche se in forma utopica, nella follia del protagonista, inutile che vi dica, perché sono cose che sapete e sappiamo. Ecco, quindi tutta la poesia è percorsa veramente fino alla poesia moderna, appunto, inutile dirlo, faccio solo un esempio, I fiumi di Ungaretti, no? Un qualcosa che è noto a tutti. Oppure, diciamo, nella poesia più vicina a noi, quindi anche post-ermetica, questo tema è presentissimo, no? È inutile che faccia poi dei nomi, perché fatalmente ne trascurerei altri e non è volontà, diciamo, di dare un diritto di prelazione a qualcuno non citando altri, però ecco, per correttezza bisogna un pochino mettere i puntini, diciamo, sulle vocali, no? Sulle i, ma vengo dalla lettura di questo straordinario romanzo, non è un romanzo, questi racconti fantastici di quel Igino Ugo Tacchetti, non so se che era un autore della Scapigliatura dell'Ottocento, e una lettura che vi consiglio, abbastanza inquietante, dove c'è a un certo punto un folle, tra virgolette, en fou, ennard, che diciamo si ha la mania del vocale chiusa U. Quindi anche le sue scelte sentimentali e poi matrimoniali cascano involontariamente su donne amate e poi una moglie che si chiama, appunto, il cui vero nome contiene la vocale famosa. Quindi così lascio a voi queste suggestioni, sicuramente trovate il libro qui in biblioteca, racconti fantastici, e fa pendant con i racconti umoristici. Poi umoristici sono Cum grano salis, dello stesso autore. Un po' per dirvi le cose. Qui noi abbiamo selezionato per la lettura, che ora farà la nostra amica e grande diciamo, attrice e veramente, oltre che cultrice poi della materia, Maria Pia Zannetti, abbiamo scelto autori locali, anche per motivi, diciamo, pratici, ma mi permetto di segnalarvi due autori non locali, un torinese e un genovese, che sono, a mio parere, da recuperare particolarmente. Loris Maria Marchetti e anche molto fortemente Carlo Olivari. Ecco, questi sono due autori. Abbiamo qui vari autori presenti, che sono presenti fisicamente qua, ma anche nel libro, quindi poi ne parlerò un po', diciamo, dopo la lettura, perché è sempre meglio la viva voce, non in questo caso degli autori. Io, per esempio, dovendo leggere, mi è successo in altre occasioni, non qui, di dover leggere cose anche indegnamente mie, è un fiasco assoluto, una debacle totale. Quindi gli autori vanno letti da chi sa veramente leggere e interpretare, e ne abbiamo qui un validissimo esempio. Io ricordo sempre, perché è una conversazione che avevo avuto con un autore che purtroppo non abbiamo più fisicamente tra noi, che condivideva assolutamente questa opinione, questa convinzione, perché è più di un'opinione, in quanto poi è, diciamo, in qualche modo acclarata, no? In pochi esempi, io direi, c'è anche qualche esempio di poeta vivente che legge le proprie cose, però, ecco, si diceva appunto con il compianto Silvano, professor De Marchi, che leggere le proprie cose, punto di domanda e puntini di sospensione. Grazie. Quindi cominciamo questa lettura con un primo gruppo di autori. Cominciamo con Fiammetta Bada, e la sua poesia si intitola Risorgiva. Liquidi, i miei pensieri scorrono sotterranei, incapaci di risalire. Non visibile è il loro fluire. Nascostamente alternano durezza e morbidezza, dolorosa tensione e dolce sensazione. I miei pensieri liquidi non permettono a occhi curiosi di osservare il loro fluire, ma basta un piccolo avvallamento nel terreno della sorte che i miei pensieri tornano in superficie irruenti e impetuosi, incapaci di resistere alla forza inarrestabile di questa imprevista e fatale risorgiva. Continuiamo con Umberto Bombasaro. Il lago a novembre. Fantasie infinite tessono rami spogli di pioppi, grigi ricami sul vetro del cielo. In geometrie di campi riposa rossigna terra stanca, nell'abbandono come madre vuota. Turchina nebbia sul lago permane e si perde lontano in gomitoli di monti confusi. Arrogante rossa luce infiamma nell'ultimo attimo grigi ricami sul vetro del cielo. Nella dolcezza dell'onda ricorda, soddisfatta amante, l'acqua del lago, colorati giochi d'amore. E sempre di Umberto Bombasaro, La goccia. Correvi sull'acqua di un fiume, correvi assieme a miriadi di gocce, tu con loro di sasso in sasso. Un giorno una stilla più grande ci unì, l'amore, cascata di fragili gocce. Ed infine, ancora di Umberto Bombasaro, Piove. Piove, nudo il mio corpo, bagnato e gelido, preda del vento, sentirlo vivere. Proseguiamo con, questa non è poesia, ma è un brano di prosa, di Massimo Cianetti, Siamo acqua. Siamo acqua, non dimentichiamolo mai. Il nostro corpo è fatto di acqua, e così pure il nostro pianeta, unico nella nostra galassia, è una magica, incredibile, affascinante palla azzurra di acqua, sospesa nell'infinito, che ci incanta e terrorizza nello stesso tempo. Che cosa accadrebbe ai miliardi di sciagurati abitanti se, per un evento arcano come la caduta di una cometa o l'impatto con un gigantesco asteroide, tutta quest'acqua piombasse fuori dalla sua sede e si disperdesse nel cosmo, facendo scoppiare l'intero sistema solare con un immane bang? Siccità, inquinamento, sfruttamento senza limiti delle risorse, disboscamenti selvaggi stanno diventando l'incubo del terzo millennio. E allora, povera umanità, alle prese con i suoi miserevoli ed egoistici problemi, allora non resta che impegnarsi tutti nella difesa di quest'acqua che ci è stata generosamente quanto misteriosamente regalata. Nella Bibbia, Genesi capitolo 1, leggiamo: Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un sol luogo. Dio chiamò l'asciutto terre e la massa delle acque mare. Prendiamoci dunque cura di quest'acqua che ci arriva nelle sue più diverse realtà, come ci ricorda l'ecologista Peter Greenaway. Nuvole, nebbia, neve, grandine, pioggia, ghiacci, laghi, torrenti, fiumi, mari, oceani e anche lacrime. Lacrime di un'umanità in pericolo. Di Liana De Luca, Mondello. Alla riva è un innocente il mare. Vagisce appena e respira con fiato di bimbo. E l'onda è un labbro infantile. Qui l'acqua marina ha proprio il colore di un'acqua marina. Più avanti larghissime fasce di violaceo mare. Colori d'oltre natura, di paradiso. Mm-hmm. Io ringrazio naturalmente e applaudo, anche se non fisicamente, insomma. Ecco, io così molto brevemente, la poesia di Fiammetta Barra, che è anche una fine cultrice appunto della lingua e della, proprio anche a livello semantico, a livello semiotico anche, questo uso delle negazioni non visibile è il loro fluire, non permettono a occhi curiosi, vedete come in qualche modo anche l'elemento cachè, l'elemento nascosto, irrompe e difatti poi in superficie irruenti e impetuosi. Qui direi c'è proprio l'essenza dell'acqua, che è il fluire. Voi sapete il famoso detto eracliteo, pantarei, no? Tutto scorre. Ecco, qui è esemplificato poeticamente, direi, con moltissima efficacia. E c'è l'amico Umberto Bombasaro, che per tutti noi è, diciamo, cortato, è ridotto a bomba, perché diciamo, è tradizionale, ed è, i nomi o cognomi lunghi si elidono e si accorciano tutti, no? Quindi elidon non sarebbe esatto, ma insomma, in qualche modo. E quindi un nome, un cognome quadrisillabico diventa bisillabico nella fattispecie, ecco. Io apprezzo in particolare di Umberto, e questo vale per la poesia e per la prosa. Quella di Umberto Bombasaro è sempre una prosa poetica anche. Quindi diciamo, è la sintesi dei due fondamentali generi letterari, se vogliamo definirli così. È la scelta degli aggettivi. Fantasie infinite, grigi ricami, o anche, pur se non è prettamente un aggettivo, però geometrie di campi, il complemento di specificazione o in altre lingue il genitivo, comprese le lingue classiche. Questo grigi ricami sul vetro del cielo, anche il cielo qui viene in qualche modo a essere aggettivato, mi si consenta, ecco, oltre che geometria, rossigna terra stanca, dove c'è rossigna terra, quindi aggettivo, sostantivo e di nuovo aggettivo, stanca. Ecco, metricamente è una scelta notevolissima, come in genere Umberto sa fare. Turchina, nebbia sul lago, anche qui naturalmente, monti confusi. Quindi anche qui dà un'idea che anche a livello eidetico, cioè di pura immagine, è straordinaria. Arrogante rossa luce, anche qui, quanto detto sopra, questa alternanza aggettivo, sostantivo e poi di nuovo aggettivo, se volessimo, ma qui non mi azzardo a farlo, potrebbe essere quasi un gioco dialettico, quindi tesi, antitesi, sintesi. Qui ci vorrebbe un ulteriore, lasciamo perdere. Fragili gocce, nudo il mio corpo, anche qui l'anticipazione dell'aggettivo, bagnato e gelido, preda del vento e d'accordo, poi sentirlo. Poi abbiamo il testo di Cianetti, di Massimo Cianetti, segnalo che l'autore, giornalista, scrittore, ma anche poeta, comunque nel senso ampio di Poglendi, creatore, modellatore senz'altro, scritto vari romanzi, questo Siamo acqua è di fortissimo impatto e naturalmente ci parla di un nuovo, sperabilmente da evitare, nuovo immane bank, il Big Bang, ecco, ed è fra l'altro una ipotesi che anche gli astronomi non escludono purtroppo, ma qui ne sappiamo ormai fin troppo e siamo in qualche modo tutti informati, no? Ecco, piace la definizione di Peter Greenaway come ecologista. Lo è senz'altro, anche se in primis è uno scultore, pittore e cineasta, quello che so, però ha sempre coltivato il tema ecologico e quindi il rapporto, voi sapete, ecologia deriva da oikos, quindi casa, nel senso che la natura è la casa comune per tutti gli esseri viventi, non solo per gli uomini, ma naturalmente anche per tutte le creature viventi, no? Quindi anche poi è stato proposto De Luca, che appunto era un testo significativo, parte da una spiaggia che non conosco, ma che so essere molto popolare, Mondello, e popolare non nel senso, diciamo, dei ceti popolari, ma di molta, gode di molta fama, insomma, questo intendevo. E qui naturalmente c'è anche un gioco interessante sull'acqua marina, il colore dell'acqua marina e colori di oltre natura di paradiso, e qui ci rimanda naturalmente a quanto accennato prima, no? Quindi tutte le tradizioni anche pre-dantesche che trattano appunto dell'acqua in dimensioni che sono escatologiche, se vogliamo, o semplicemente oltre la natura e oltre la mera vita umana. Ecco, direi continuiamo. Sì, dunque la seconda tranche di letture comincia con tre liriche di Silvano De Marchi. La prima, Canneto. Conosco un lago dove ogni notte la luna specchiandosi si bagna e pallidi topazi suscita fra le onde del Canneto. Si scuotono gli uccelli che hanno i nidi a fior dell'acqua, affiorano le carpe e guardano il chiarore. Tanta pace la notte non ha. Ma in me sovvengono le ore brevi degli incontri e i ragazzi che qui solevano tuffarsi nel diffuso candore della luna. Da una finestra che dava sul mare guardavo le navi che lente passavano all'orizzonte. Sotto, infrangendosi a riva, l'onda parlottava e più l'ascoltavo meno mi appartenevo, dimenticavo di esistere. Ma lo sguardo si spingeva lontano, dove all'ombra dei tamarindi sulla spiaggia dorata prendevano corpo i miei sogni. Tra le palme volavano chiassosi uccelli marini e là, dove in un unico abbraccio si incontravano il cielo, il mare e la terra. Scoprivo una patria mai conosciuta, o forse conosciuta nel sogno. Sempre di Silvano De Marchi, a Casablanca. A Casablanca stamane sulla spiaggia il miracolo. Fulvi come l'arena i capelli, gli occhi azzurri come il mare, le sue cosce lottavano con i flutti, il suo dorso era fremito d'aurora e di rugiada. Suonavano a distesa stamane le campane del Sacré-Cœur. Ed infine, di Silvano De Marchi, Gioventù dorata. A Genova, sul lungomare, correvano giovani in calzoncini variopinti, ritmando il passo alla snellezza flessuosa dei corpi, e in me nasceva dolce un rimpianto. Incredibile gioia mi donava il relax sul molo con gli amici e le amiche, nei ridotti tanga, gioventù dorata. Proseguiamo con Maria Teresa Epifani Furno, l'idillio del Balaton. Zigano palpito d'ogni passione, amore Balaton, ansioso attendi l'umida sera per abbracciarla dopo il tramonto di fuoco tinto. Mille bagliori è acceso il petto, veloci si inseguono. L'ora vicina distesa, memore del desiderio, pronta ad accogliere il lungo bacio dell'acqua tua col cielo. E chiudiamo questa tranche con Eugen Galasso. Soprassediamo, ma se volete proprio. E rivedeva. E rivedevo poi sempre la scena, Young Beautiful Girl, Inflans Matela Pneumatique, The Sea, la mer, sempre il ricordo. E che importa se il ricordo è antico? Sempre di Eugen Galasso, Triste Mare. Triste mare d'hiver, mer mer, pale mer, storia di lacrime da solo. Kate Moon as Revenant, Phil Glasses Einstein on the beach. E ora prosa. Era ormai Ferragosto. Era ormai Ferragosto. E un Ferragosto duro, con i suoi impegni, recensioni da scrivere, altri testi da preparare, altro ancora, e le sue ferraostità. Gli sembrava ormai lontano quell'inizio di luglio, al mare, con la bellissima. Mare, acqua allo stato abbastanza puro, freudianamente simbolo chiave dell'inconscio, junghianamente, ma anche anticamente classicamente, quintessenza della magna mater, la cui età peraltro e la cui condizione familiare anche nel paganesimo antropomorfo non gioca mai un ruolo determinante, anzi, una magna mater che non ha bisogno di alcuna determinazione particolare. E allora era la bellissima M, che lo spingeva dolcemente in acqua, lui che non sapeva nuotare per nulla. Ancora lei, con una forza polmonare straordinaria, gonfiava appieno un materassino e che lo faceva giocare, vera madre, per una settimana. Vera sirena, non ingannatrice. E chiudiamo con Andrea Larker, Come l'acqua. Umiltà sincera come l'acqua s'accoglie nel cuore, come in limpida anfora e la contiene, quasi semplice virtù che pensa e tace e ispira in noi un senso di vita autentica ed intatta. Invocata pace sulla terra amara, ardore cupo senza speranza, che come fuoco invade tutte le vie dell'aria. Sicura carità, amore che dal male libera e consola. Prego, se vuoi commentare. Grazie. Sì, dunque, intanto Silvano De Marchi, io direi straordinarie queste poesie dove ci sono tutti i temi, tutte le tematiche di Silvano, ossia il ricordo, quindi la rievocazione del passato e la ripresentificazione del passato, che poi troviamo anche in altri componimenti che sono stati letti, ma questa capacità di rievocare, di ripresentificare, direi ha un approdo che è magico, che è in qualche modo fantastico addirittura, no? Quindi l'unico abbraccio dove si incontrano cielo, mare e terra, quindi tutti gli elementi in qualche modo, aria, acqua, terra appunto, manca il fuoco, ma ecco, c'è anche lui perché è conosciuta nel sogno, quindi il sogno qualche modo la dimensione anche del fuoco, se vogliamo. Segnalo solo una cosa che non ho detto, ma che percorre un po' quello che ho cercato di scrivere nella prefazione o introduzione, che dir si voglia. Cioè, psicanaliticamente, l'acqua è proprio il simbolo classico dell'inconscio. Lo dice Carl Gustav Jung, ma questo c'è anche in Freud, assolutamente, anche se diciamo in altro modo, ma lo trovate, percorre tutto il pensiero psicanalitico. Dico pensiero psicanalitico perché poi ci sono riflessioni che sono oltremodo anche teoriche e teoretiche. Penso in particolare a Jacques Lacan. Ecco, o anche la sensualità che c'è in Silvano, incredibile gioia mi donava il relax sul molo con gli amici e le amiche nei ridotti tanga gioventù dorata. Quindi anche qui elementi che in qualche modo la dottoressa Epifani Furno, qui si parla del famoso lago Balaton, credo che sia un qualcosa di abbastanza noto, il lago ungherese che in qualche modo viene evocato varie volte come assolutamente particolare, e qui è un'esperienza personale che l'autrice racconta e che però assume connotazioni in qualche modo universali. Vabbè, poi ci sono le mie cosette, qui nulla da dire, l'ispirazione surrealista che mi ha fortemente, direi, condizionato, anche perché tra i 16 e i 18 anni leggere Breton è un po' un colpo, e quindi da uno shock che si è rivelato

La pioggia che ha lavato queste colline scioglie una patina opaca dal mio cuore. Ora che il cielo si va rasserenando, scendiamo al lago, Leila, fra gli alberi grondanti del giardino. Scendiamo al lago, Leila. C'è una barca che conserva il ricordo ed il rimpianto del tuo volto d'amore. 12 luglio 1966. E chiudiamo questa tranche con Cristina Matà, L'onda del tempo. Quando si fa sera e le onde del giorno si gettano sulle rive, si illumina lo specchio levigato nel crepuscolo che tutto avvolge. Un mormorio leggero delle voci del giorno, delle voci che furono e che mai non passano. Esse sussurrano, fluiscono e si scambiano, riempiono il vuoto e camminano, come ombre in mezzo ai molti visi, nello scambio delle maschere. Esse sono le compagne del mio giro sulla giostra, del cullarsi, dell'alzarsi, prima che il sipario cada. Ecco, così brevemente direi Franco Latino, che abbiamo qui per fortuna live, c'è una tematica che Franco ha sempre curato, approfondito poeticamente e in prosa, che è quella, diciamo così, degli esclusi, dei reietti. Se volessimo così stabilire un paragone, viene da pensare ai poveri, ai miserabili di Victor Hugo, o al ciclo dei vinti Verghiano, no? Nella prima poesia che è stata proposta c'è la figura dell'eremita, che parla in prima persona con grande umiltà e con grande però calore poetico, e è una figura di particolare tensione e coinvolgimento, no? Con questo canto di cicale e dolce fremito d'ali di grilli a sul leone, ma diciamo in una cornice, in una realtà fenomenica, diciamo, che è molto difficile, coperta di cartone, e quanto ne deriva. Quindi qui naturalmente abbiamo proprio il derelitto in qualche modo, o anche nel mare profugo, un qualcosa che purtroppo ci viene ricordato sempre anche dai disastri che crea il mare, che creano in qualche modo le difficili navigazioni su barconi improvvisati o altro, no? Quindi c'è questa realtà che Franco Latino coglie in modo particolarissimo. Attenzione a questi versi: domani si parte, anche se il cielo sarà scuro e non è chiaro, non è sicuro se il mare lo lascerà andare o lo terrà con sé. Ecco, e la conclusione oltre la nebbia, oltre la scogliera, dove naturalmente si apre uno scenario che può essere a seconda, e qui la poesia non è mai descrizione mera della realtà, ma ci fa guardare oltre, e questo oltre è esemplificato in maniera direi straordinaria da Franco qui. O l'acqua muore, e qui naturalmente anche si aprono realtà che sono realtà molto difficili, molto dure da vivere e da in qualche modo non tanto narrare, questo sarebbe il compito della prosa più che della poesia, ma appunto di evidenziare poeticamente, e qui viene fatto in maniera notevolissima, ma sappiamo, ecco, l'altro fondatore dell'ASA e della LATMAC era, purtroppo non è più tra noi, Franco Maria Maggi, il mare, e qui c'è una tematica che a Franco Maria Maggi era particolarmente cara, il silenzio di Dio, che poi è un tema mistico anche, il Deus ab conditus, il Dio nascosto, quindi anche delle profondità che vengono accennate, vengono intuite, non vengono descritte, perché appunto non sarebbe il compito della poesia. Ancora, mari profondi, il mare palpita di strane creature, avvinte a marinai su spiagge deserte. Anche qui, diciamo, la scelta di lemmi, di vocaboli, che sono sempre particolarmente adeguati e che sono realmente poetici. O questa immagine del mare insonne, che però è una contradictio in adiecto, se vogliamo, una contraddizione in termini, e scalpita però come un toro sperduto nell'arena. E anche qui tutta la tematica che Franco Maria Maggi ha espresso sia poeticamente sia in prosa in maniera molto efficace. Nel componimento di Manzoni di Chiosca, Una barca, c'è questo nome evocativo, sarebbe un vocativo se fosse in latino o in greco, questo Leila, che adesso io non conosco la biografia analitica al di là di quello che trovate nella nota, ma Leila era un romanzo di un grande scrittore italiano, veneto per la precisione, Antonio Fogazzaro. È un romanzo, adesso vado a mente, quindi può esserci un piccolo errore, ma o degli ultimi anni dell'Ottocento o credo più probabilmente di inizio Novecento, 1901 o 1902. Leila e il Santo sono poi le ultime composizioni di Fogazzaro. Il mio prof all'università, che era il grande Luigi Baldacci, diceva Fogazzaro, io non lo so dire, lo chiedo all'ortopista, diceva Zaro, non so come, invece che Fugazzaro, come dico ma io. Ma i cognomi non hanno regola. Appunto, però lo pronunciava così, e quindi chapeau, non so. Ma oltretutto io non so dirlo così, quindi non mi astengo, ecco, lo lascio dire. Ecco, può essere un'evocazione o una persona conosciuta, qui non so dire, ma mi sembra un nome age, un nome antico, Leila, appunto di inizio Novecento, di fine Ottocento, non un qualcosa di più recente. E invece leggo 12 luglio 66, quindi siamo in qualche modo in un altro tempo. Non saprei dire, ma al di là di questo c'è il ricordo e il rimpianto, qui anche molto forte dal punto di vista metrico, è l'allitterazione, no? R-I, ricordo, rimpianto, che è poi l'evocazione del volto del morto. Ecco, consigliavo la lettura di Loris Maria Marchetti, ma qui ognuno deve, diciamo, scusate il francesismo, ma non riesco a fare diversamente, l'approcciare i testi in modo personale, quindi non vorrei dare delle indicazioni che possono essere delle vie in qualche modo obbligate, mai e poi mai lo farei. Cristina Matà, L'onda del tempo, c'è un elemento molto interessante in questa poesia. Non si parla mai di acqua, in nessuna forma, però c'è il fluire ancora una volta, e il fluire è tipico dell'acqua. Quindi naturalmente anche a livello semantico torna l'acqua in absentia, cioè non c'è, non viene espressa, però è profondamente presente. L'ultima selezione si apre con due brevissime liriche di Carlo Olivari. La prima, Ribollire del mare. Da calma a furia, tu via via passando, come in natura, eterno mutamento. La seconda, Gabbiani sul mare ottobrino. Padroni assoluti essi della spiaggia, in lotta per il cibo contro le onde, in lotta con le ali aperte, spietata. Di Dagmar Wert, Onde. Onde che portano lontano a frequenza irregolare. Il controllo umano non basta a dominare natura madre. Tentazione mondana che filtra l'equilibrio universale. Non perdere stima, tu terra sacra, che io reggo questa bugia mortale. Marocco, 11 maggio 1999. La seconda di Dagmar Wert si intitola Acqua. Sei come l'acqua che disseta il mio cuore secco, rinfreschi le mie idee e fai fiorire di mille colori il mio mondo. Di Elisabeth Wolf Cianetti, Acqua magica. Acqua, vita e morte in eterno movimento, sei tu la nostra sorte, a volte ferma e silenziosa e poi prorompente e distruttiva, principio primitivo di ogni cosa. Tu sciogli e trasformi la vita, tu sei energia e magia, essendo priva di colore, dipingi in ogni momento il passare del tempo e svegli gli spiriti di notte. E chiudiamo con Mirella Zardini Esposti, L'onda. Dopo lunghe estati c'è un'onda che mi lambe ancor le mani, un'onda delicata, odorosa di alghe, par che discreta inviti a confidenze antiche, che palpiti, arrossisca ad amorosi gesti e pudica confonda il suo spumeggiare in più ondulate vesti, fino a morir lontano. E tu, caro, ricordi, là mi baciasti per la prima volta di fronte al vento e al generoso mare. Beh. Allora, quest'ultima, diciamo, tranche, Carlo Olivari, ecco, ho insistito io perché è effettivamente anche una persona, tra l'altro, che non ho conosciuto direttamente, abbiamo avuto, credo, un lontano scambio di vedute via mail, però poca cosa, andare a Genova non è sempre facilissimo. Da calma a furia, tu via via passando, ecco, come in natura eterno mutamento. Qui è proprio il filosofo di formazione Olivari, dove il Pantarei che citavo prima, il tutto scorre Acliteo, che poi è naturalmente diventato proverbiale, è in qualche modo esemplificato in modo notevolissimo. E invece poi Gabbiani sul mare o Torino, in lotta per il cibo contro le onde, contro le ali aperte, in lotta con le ali aperte, spietata, qui è intesa la spiaggia, ma come vedete, a parte la capacità di una poesia breve, qui naturalmente la lezione in Italia, in particolare ungarettiana, è fortemente presente, no? Però in un modo molto, molto efficace. Questi gabbiani in lotta sul mare ottobrino, in lotta per il cibo, qui voi sapete, è proprio la teoria darwiniana dello struggle for the life, no? Della lotta per la vita, o meglio, per la sopravvivenza. Questo è decisamente una poesia che in tratti e in pochissimi versi, in tratti brevissimi, sa, diciamo, dirci moltissimo. Dagmar Wert, qui onde, abbiamo, anche qui non si parla di acqua però invece torna nella poesia successiva, addirittura diciamo all'ennesima potenza, per così dire, perché nel titolo, voi sapete che il titolo ha sempre un ruolo predominante, non particolare. Quindi ci sono alcuni lemmi qui che vale la pena così annotare: natura madre, terra sacra. Anche qui evidentemente sono lemmi molto importanti da parte di un'autrice che ha, tra l'altro, è la vedova, la vedova di Cianetti, del compianto poeta Cianetti, giornalista, poeta, scrittore. E anche qui invece poi acqua, l'acqua che disseta, scusate, ho fatto un salto, no? Perché comunque ero a Bert e no, c'è solo... ci siamo, sì. Acqua magica della Elizabeth Wolff Zanetti, e qua appunto acqua, vita e morte in eterno movimento. Ecco qui da notare la capacità evocativa che ha l'iterazione. Questo tu sei tu la nostra sorte, sciogli e trasformi la vita, energia e magia. Qui potrebbe essere in qualche modo l'être suprême, per dirlo con la rivoluzione francese, ossia Dio, o comunque una forza soprannaturale o sovrumana, o invece una, appunto la pura energia, la energia, che è del resto prorompente e istruttiva, dice, principio primitivo. Notate anche qua l'uso della letterazione, che è particolarmente efficace. E con questo richiamo finale agli spiriti di notte, o gli spiriti della notte, no? Quindi anche qui si apre tutta una dimensione, che è quella la dark side, diciamo, no? La parte nascosta, non conosciuta, e qui lascio a voi, no? Mirella Giardini esposti, a parte il fatto accidentale che era in anni lontani una vicina di casa, era la signora Esposti, moglie del professor Walter Pierino Esposti, che era un pittore, un artista, ma efficace l'onda delicata, odorosa di alghe. Anche qui vedete l'uso della vocale, qui non la famosa U che citavo, ma una vocale in qualche modo più rassicurante, che è la O, forse, ecco, non sono nella dimensione medianica di comunicare con Tracchetti, quindi lascio a voi un po', ecco. E anche qui l'evocazione, la mi imbracciarsi per la prima volta di fronte al vento e al generoso mare. Come vedete, un ricordo personale che sicuramente è riferito alla persona che citavo, cioè al marito, e ha la capacità però evocativa che hanno le poesie. Qui io non sono granché informato di quanto la signora Esposti abbia scritto, abbia prodotto, però c'è una capacità indubbia di usare la lingua. Ecco, io vorrei sottolineare ancora alcuni poeti anche locali, o meglio poetesse, che sono di notevolissima importanza, ma per motivi di tempo non abbiamo letto, ossia Celestina Vanzini, in particolare, e poi Cristina Ferrari, Ferraris Franca Maria, la signora di Otto Gabriella e ancora, ecco, Valenti Franca, naturalmente, ecco, oltre. Qui c'è stato anche un problema di tempo, ma anche di in qualche modo di omogeneità dei testi, che forse, ecco, erroneamente, o comunque ogni scelta è sempre in qualche modo monca e manchevole, ci ha fatto prediligere questa scelta. Ecco, grazie. Io ringrazio in particolare, oltre alla biblioteca e alle sue rappresentanti, Franco Lottino e naturalmente la nostra attrice, lettrice, autoepista, che oltretutto ci insegna anche, io non ne faccio sempre buon uso, a pronunciare bene le parole. Grazie a tutti, grazie. Alla prossima, grazie ancora.